Friuli nel mondo, 244esima trasmissione dedicata agli emigrati. Friulani per il mondo, Giacomo Cecconi di Monte Cecon. A 77 anni, il 18 luglio 1910, chiudeva in Udine i giorni della sua laboriosa, munificente vita il conte Giacomo Cecconi di Monte Cecon, che volle essere sepolto nel suo paese natale, Pielungo, nella Val d'Arzino. Da uno studio biografico compilato nel ventennale della sua scomparsa da Lodovico Zanini, autentico emigrante lui pure, attingiamo quanto può giovare a dare una sia pur pallida idea di questo eccezionale e famoso costruttore di linee ferroviarie e di gallerie, che lasciò tanto nome anche per le magnifiche opere compiute a sue spese per lo sviluppo del suo paese e della Val d'Arzino. Nel presentarvi la figura di Giacomo Cecconi, lavoratore e imprenditore, intendiamo, cari emigrati, rendere omaggio a quanti della nostra terra hanno saputo con la loro tenace intraprendenza e non senza sacrificio raggiungere prestigiose posizioni nella vita, contribuendo nel contempo al progresso civile ed economico di varie nazioni. Si può dire del mondo intero, giacché non v'è angolo della terra ove non operi un friulano. Da pecoraio a conte si potrebbe sintetizzare l'arco di vita di Giacomo Cecon. La sorte del piccolo Giacomo, il Min da Biela di Cerdevol, così era chiamato dai suoi conterranei, non fu dissimile da quella di tutti i ragazzi della vallata. Pielungo allora non aveva strade né scuola, perciò i lavorucci di casa ed il pascolo davano da fare anche i fanciulli. Lo svago preferito dal nostro Giacomo, quando stava a guardia di capre e di mucche pascolanti, era quello di intagliare talmines, una tipica foggia di zoccoli che venivano portati a vendere ai mercati di Spilimbergo e di Clauzetto. Sicché più d'uno, rilevando quella sua promettente abilità in tale lavoro, ripeteva che un giorno il Min da Biela avrebbe portato fortuna alla sua casa. A 18 anni, nel 1851, volendo apprendere un mestiere e recare un guadagno in famiglia, decise di partire con un cugino alla volta di Trieste, dove i muratori della Val d'Arzino andavano a far la stagione. E colà fu assunto come manovale, un tirocinio che toccava ad ogni garzone prima di divenire affidato ad un bravo maestro di muro. Era capitato a Trieste pressoché analfabeta. A stento riusciva a decifrare lettere a stampa apprese con l'aiuto di qualcuno, sfogliando ogni libro che gli capitava tra le mani. Bisognava istruirsi dunque, e appena poté disporre di un proprio gruzzolo andò in cerca di un maestro che lo avviasse all'uso dell'alfabeto e dei conti. Da allora i giorni del Cecconi furono tutto lavoro e studio, tanto che alla chiusura della stagione, quando i suoi compaesani e compagni di lavoro rientravano nelle loro famiglie, egli si tratteneva a Trieste per esercitarsi nel disegno. Ed in seguito, raggiunta la qualifica di muratore, la stima e la considerazione dei capi si manifestavano nell'affidargli incarichi di impegno sempre maggiore. Evitato il servizio militare sotto l'Austria, il Cecconi passò alle dipendenze dell'impresa dei fratelli Martina di Chiusaforte, impegnati nella costruzione del parco ferroviario di Trieste. Da quel momento doveva maturare in lui il proposito di assumere subappalti in nome proprio. Nel 1857, assicuratasi la concessione d'un cottimo sulla linea di Zagabria, si mette a capo di un gruppo di bravi compaesani con i quali porta a buon fine il nuovo impegno. Poi, sempre sostenuto dalla loro fervida collaborazione, assumeva altri lavori sempre nel campo ferroviario. Ma nel 1865 comincia la vera e propria attività di impresario autonomo, segnando fino al 1880 15 anni di intensa attività che devono considerarsi altrettanti passi decisivi della sua carriera di costruttore di ferrovie. Il 1870 è l'anno del collaudo del Frasi, primo dei trafori aperti nelle Alpi. Il 1873 segna l'inizio degli scavi del San Gottardo, che verranno compiuti nel febbraio 1880. E appena un mese dopo, marzo dello stesso anno, Vienna deliberava la costruzione della ferrovia dell'Arlberg, 120 km di linea, da Landeck nel Tirolo a Bludenz nel Vorarlberg, con rampe d'accesso ad un tunnel di oltre 10.000 metri, un'opera di grande mole tra le più ardue dei nostri tempi. E Giacomo Cecconi affronterà questa impresa, la più vasta e la più rischiosa fra le tante da lui assunte nell'Oltralpe. Vagliati i titoli e le offerte dei concorrenti, si legge nella storia delle ferrovie austro-ungariche, il 23 dicembre 1880 la commissione giudicatrice assegnava il tronco occidentale ai fratelli Lapp in società con Giacomo Cecconi e quello orientale all'impresa Giacomo Cecconi da solo. Secondo i contratti, lo scavo in galleria doveva farsi con un medio avanzamento giornaliero di almeno 3 metri e un terzo. Il rivestimento interno del tunnel doveva compiersi in 6 mesi dall'avvenuta perforazione, le rampe d'accesso entro l'estate del 1884, la grande galleria per il 15 agosto 1885, data quest'ultima del compimento definitivo della linea. Adeguate misure dovevano indurre i costruttori all'osservanza dei termini. 800 fiorini di penale per ciascun giorno di ritardo e altrettanti di premio per ciascun giorno di anticipo. Impresa invero colossale, se pensiamo anche ai mezzi di cui non disponeva la tecnica di allora. Ebbene, cari emigrati, dopo la grandiosa festa per il raggiungimento del primo chilometro di galleria, e ciò avveniva al quinto mese dall'effettivo inizio degli scavi, con una toccante dimostrazione di stima e di affetto verso il Cecconi, che, generoso e paterno, divideva con i suoi operai i rischi e le fatiche di ogni giorno, e dopo una visita ai lavori dell'imperatore d'Austria, che volle onorare gli artefici dell'Arlberg, il 19 novembre 1883 il ministro del commercio d'Austria, von Pino, risaliva all'Arlberg per accendere la mina che squarciò l'ultimo diaframma di roccia fra i due tronchi di galleria, i quali risultarono uniti con uno scarto laterale di appena 43 mm. E l'opera grandiosa veniva completata, notate bene, con 13 mesi di vantaggio sul termine stabilito dal contratto. Una somma favolosa per quei tempi spettava in premio all'impresario Cecconi, che se ne servì, come abbiamo detto, per la costruzione di opere pubbliche nel suo paese, quali scuole e la grande strada Regina Margherita che unisce i paesi della Val d'Arzino con quelli della Val Tagliamento. Thank you. L'eco di una tale impresa suscitò ammirazione e stupore universali, tanto più che in 3 anni e 5 mesi di lavoro in galleria, nel settore affidato esclusivamente al Cecconi, non si era dovuto lamentare un solo infortunio di rilievo. Non fu una sorpresa, quindi, se con decreto dell'Imperiale Regio Governo, in data 12 maggio 1885, veniva conferito al Cecconi, in riconoscimento dei suoi grandi meriti, il predicato di nobile di Monte Cecon, confermato gli anni dopo dal governo italiano col titolo di conte. La sua fine toccò profondamente il cuore dei suoi compaesani. Durante il cinquantennio delle sue imprese all'estero, nessuno della Val d'Arzino aveva penato nella disoccupazione e tutti si erano sentiti orgogliosi di lui e della sua grande fortuna, che gli aveva consentito di largire anche lauti premi di merito e particolari sovvenzioni d'aiuti nei casi più diversi, soprattutto per l'istruzione dei giovani. Possiamo chiudere questo rapido ed incompleto profilo con 2 espressioni attribuite a suoi operai e che definiscono la non comune sensibilità e l'umanità di Giacomo Cecconi. L'una nel descrivere la festa per il compimento dei primi 1000 metri di galleria. Po Sinzus ha illuminato tutta la galleria e ha fatto di grandi arcs come parna sagra e un gustà per tutta la int all'era pront e lui in taula con nosatis cence nessun aier. E l'altra in occasione della sua scomparsa. Tenia ben a menz che le zud via con la polenta in tasacheta e alle tornat un sioron a face tan ben al sio canale. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.